megahertz da. E fino a stamattina, cioè la sera, mi sono stufato di ascoltare ciò. Voglio anche parlare qua. perché sto ridendo. Bene, comunque Marco, mi hanno telefonato ieri e sei l'unico che arriva 9:40 in un punto con quella Gigio che c'hai. Non ti voglio dire chi è a Barattino perché ti dovrebbe dire lui, però sei l'unico che arriva, il più forte ci sei tu, la Sassari. No, non è possibile, perché e c'è qualcuno molto più alto di me, molto più aperto, e poi bisogna vedere se è 9:40 di Kenwood o 9:40 di Baracchino. Io non so, 9:40 è la sua, quindi non ti senti da Baracchino, ma poi mi ha telefonato, me l'ha detto di ieri, dice che esci molto molto forte. Io non riuscivo perché ha cambiato sistema di antenna di Rete Base. Ma quale Gigio sta per parlare? Ehi, l'antenna già. L'altra non era manco un'antenna, era una mezza antenna. Una mezza mezz'onda. Ma ecco, con quella Gigio esci più forte, che è Gigio? Con l'antenna sta parlando, stavo parlando io. Ah, ho appena nuova, capito. E poi che aggiungerò l'altro, lo cantelli. Non so, io ho parlato di aggiungere, per dire, dell'antenna, ma forse non aveva capito male. Mi ha chiamato e mi ha detto che c'è 9:40 a casa sua, quindi sei molto molto forte, quindi, e basta. Poi te lo dirò a lui, Marco, quando senti la Marachino e sai chi è la persona che me l'ha detto. Ho notato naturalmente con il segnale più forte è aumentato anche il QRM. Certe volte arriva fino a 8 quando c'è propagazione, poi vabbè, gli americani su 6 arrivano ben oltre 9. Beh, logico, è cambiata la musica, è come se tu ci avevi, come io quando avevo la Grand Prix e poi ho attaccato la B27L. Quale uguale, solo che con la capelle c'è un buio che ho dato a quello di segno che non ho più visto né lui né trattato dei soldi, è il cavo, quindi evidentemente andato in cavalleria, arrivo sia Marco Verna. Ehi, ho inserito l'attenuatore perché il QRM è forte, mamma mia, e qua squalcia non ce n'è. Comunque va bene così, dai. Marco, secondo me sei più forte anche di radio adesso. Vabbè, magari... No, non ho toccato niente. Il mic gain è sempre sotto la C, Gianni. Adesso sto usando circa... Circa 20 watt. Vabbè, qua lo strumento mi dice 30 watt. Però regala watt questo strumento, dai. Non è la potenza reale, no. E lo strumento, l'apparato mi indica tipo 18 watt, una cosa del genere, dai. Qua c'è 2:30, amica. Ma non pare che ti vedate di manco di cose di watt. Apparecchiamo di più. Sei 9:30 qua, Marco. Aspetta, Marco, metti a... Allora, segnale 9 sono 50 watt di quell'apparecchio. Metti a 9. Cioè 50 watt in tutto, là. E vediamo come esci. Sono... Devo... L'apparato immagino, no? Perché mi sembra un po' troppo generoso il wattmetro qua. Non il wattmetro dell'apparecchio, non il wattmetro. E lasciano così. La mattina quando scende, mi sembra 25, una cosa del genere. Tu non la scalda e sale nuovo a 5. acceso tutto il giorno, Antonetto. L'apparato qua è acceso da allora, prima di pranzo, dalle. Allora Antonio, ricordati che il manuale dice 40 male, esco bene, con 50, 40, aspetta, adesso a 30, è strumento dell'apparato, meno, ecco qua Antonio, adesso sono 40 watt apparato, riportando già. Allora, strumato, modulazione M, canale 5, frequenza 27015. Quindi che non è cambiato molto. K930 qui qua. Antone, cambia poco, perché da 20 watt a 40 watt sì, in mezzo. Sai, 2x48 80 watt, vabbè, la modulazione mi devi dire se è abbastanza passabile, dai, è chiara, sai, 3x50 3x50 normale, che fregate tu. Oh, posso provare, ma so già che esce male, aspetta, ricordati del manuale, dice, aspetta male. Allora, 50 watt dello strumento, 50 watt, 1, 2, 3, 4, 5, canale 5, sono le ore 10. Figurati, quindi lascia tutto così. Guarda che io le salta fino a 2 anni fa, sopra 50 watt lo usavo, sopra 50 watt è stato, non è mai stato toccato. Gli AEC, vabbè, retto sì, magari, però così finora è durato, e ancora figurati tu quell'apparecchio, sei proprio tassativo tu Marco, se ti dico una cosa, la farà così perché va bene, stavate tutti i giorni, tutti fino a 50, una volta che sei a 50 tu sei perfetto, poi 5 comincia a salire, sei a 70, 80, lo facevo io, 90, non ne fai nulla diciamo, secondi. Allora usi il sistema, lo facevo io, mi bucio un 31, uso il giorno, esci qua M e esci con 150 con le linee attaccate, avanti la fai, poi M ti dà 50 volte di corpo, si è fregato, poi una M, come adesso. Fagli 13,8 una cosa del genere, capito Marco? Quanto? quanti? Allora, 13,8 volt e sali a 50 watt, sì, e si è a posto, ti succhia intorno ai 25-30 ampere dovrebbe essere, 25-28, adesso non è che mi ricordo bene dell'alimentatore mio, io mettevo il voltaggio a 12,8 e la parecchia lavorava bene, scendevo a 12 e mi dava picchi negativi, hai capito? Allora dovevo diminuire i watt e mi dava picchi positivi a 12 volt, invece io quando salivo a 13,8, ma no, non più di 13,8, massimo 15, non di più. Io ci sono già, aspetta che si è sceso troppo di... lo rimetto a 40, eh. Mamma mia, me lo puoi toccare di un decimo di millimetro e parte a razzo. Un altro po'. Ora, 40 bar, aspetta il controllo. Ecco, l'amperometro va poco in negativo, appena. 8 volt, adesso lo rimetto su ampere. Allora, con 40 watt, quando 8, 10, 11 ampere. Sono giusto, non è possibile, fatti conteggi, non è possibile, cioè se tu c'hai qua, non è possibile, perché già... lineare di... ma non me lo sta dicendo? Sì, io invece ho 50, ho messo che già 7 di ore, e sono 100 watt, io sono quasi 28 a me di ampere, quindi non ho quello, lasciate, non è possibile, perché adesso io come dico loro vado a fare il calcolo con i parametri, gli altri più un libro e ci sono i cali. Io non ho 100 watt, io ho 40 miseri watt, l'RM 203 conce, fine che siamo a 90 watt, assorbe circa 10 ampere, come dice la casa. Scusi, quanto dovrei assorbire? Vediamo. Guarda che io, facevo io, iniziavo per me, tutti, e pompava, te lo ricordi e pompava. Non ce la faceva più, allora se tu non si lo sto dicendo, il team è così poco, 11 ampere, non ci credo. Invece quando qui c'è andato a vedere Fluvio, con 50 ampere, assomiglia 25 ampere. Allora Antonè, ti dico solo che il Kenwood, pure 20-22 ampere, come faccio col scavato, me lo spieghi? Non so, ma il mio era così, cosa vuoi che dica io? Io l'ho fatto così, col Kenwood e basta. Cosa è? Però il mio 25 ampere assorbiva 50 watt, tutti. E allora ho sballato, per esempio Gianni, dimmi quanti watt stai usando e quante... Adesso trovate da 10 a picchi di 20. L'ampere c'è all'incirca 10. Ma Gianni, quanto ti va? Adesso non lo so. E poi Antonio è semplice. Qua dietro c'è scritto massimo 20 ampere. Ferma con 100 watt in SSB, io adesso se volete faccio la prova, ma... Aspetta, dipende da parecchio oggi, Marco, un detto con 50 watt, 25 watt c'erano tondi tondi, quando mettavo a 100, quello ti volevo spiegare, cazzo pesa 20, non tutti. E poi bisogna essere affidabile. 11 ampere. Ascolta, dimmi una cosa, a fianco c'è quel, come ce l'hai, no? Ah, qual è il tastino? Non tastino, quello interruttore, diciamo. C'è un altro CV, poi c'è... Quello del CV doppio, non c'entra in AM, per banda laterale, c'è un altro CV. Ma qui ho fatto la manovra del cursore di guardia, invece ho toccato quello. Antonio, aspetta, non c'è due. Io dopo di adesso fate chi segna sembra quello che aveva, che mi aveva dato più vatte di quanti, è stato un po' generoso, dai, per accontentare l'utente. Aspetta, mi sono regolato con Kimono, quindi di fatto mi ha dato con Kimono, mi ha dato anche cosa mi uguali. Io ho trovato solo che ho trovato per gli anni, se gli altri di meno. Sono tondi, soltanto multa. Dai, esagerato, aspetta, no, che metto la scala giusta. 20. Mi ci fa tempo a dire. Tortura, si può fare ma non lo tocco. Sì, non lo sai fare, no? No, no, no. Hola. Vabbè, dai, mi si è asciugata la bocca, fatemi andare a bere. Bevi la lanciata. C'è problema. Vino. Ma tu aranciata. E ma che dove mi devi ricordare? Ma la faccio. Ma pare che sei bevuto la birra l'altro giorno. Io dai. Adesso mai ci bevo la birra, se ne è buia. Ti fai sentire e andiamo di lì. Mezzo bicchiere di vino spumante. E si sente? Fatemi un vai, c'è un bel mercato. Spumante bene. Va bene, non ti faccio uno spumante. Scusate, ma proprio mi uscito da solo. Mamma, mamma, non so perché per il mio lavoro ci trovo un sospiro. Come lo faccio? Sono poi Vattimo, è Gianni che si è abbassato, si è scappando. Quindi no, se va bene, uno è molto o non lo prendo. Gianni si va un po' meglio, va. Oh, certo che... Là, io non per essere pignolo, però se dovessi per esempio registrare come sta uscendo Antonello, come stai uscendo tu, c'è un abisso però a livello di proprio di chiarezza della modulazione. Io ci posso fare. Vabbè, quello non conta perché è un baracchino, non fa la prova. Antonè, quale stai usando? Tipo Tornado e Company? No, sto usando il Supercast 1009 per esattezza, con microfono Salerno. E basta, se lui si mette in Salerno in qualche urlo, lo sto dicendo che è come mettere la calapa indiana col tabacco che vendono a perfumare. Eia, va bene, vediamo qua, 20 watt. 1, meno di 1 e 2, 1 e 1 sono, dai. Tu quanto ne è? Con 4 watt dell'apparecchio, cioè del normale baracchino, 4 watt, praticamente ho stazionarie basse su 240 canali, allucinante. Non c'è un baracchino, ce l'hai così, ricordo una cosa, i baracchini hanno un'impronta 52, il tubo c'è la 50, sono due ombre di differenza, quindi devi aspettarti questo. capito, il discorso è quello lì. Mi sono dedicato io proprio quel giorno, avevo lasciato l'antenna. Quando stavi tu che volevo, diciamo, hai sempre una palla di sovrasamento di cose stazionarie. Perché uno è 50 e 52, ma non mi fa un cazzo, non è cosa problema. Infatti è che sì bene. Sì. Sì, non c'è dubbio, Antonio. Non mi preoccupo. Allora, con 4 watt, proprio 1,1 per dire, no? Su 240 canali quasi. Se uso 10 watt invece, salgono a 1,2 per dire. Massimo che ho visto è 1,3, mi pare, sull'80 sotto, una cosa del genere. Poi su 120 sotto scendono di nuovo le stazioni. E questa cosa l'hanno fatta anche con la Ringo. Capito? Quando scendi oltre l'80 sotto, va su 120 sotto, scendono di nuovo, come se ci avesse un... Va bene, dai. Sai cosa dovresti fare adesso, Marco? Uno di questi giorni ti ami, non ti capi a pace abbastanza, sono le mani fuori, una specie di spatola con la... col trapano e ti pulisci quel palo che abbiamo sceso e lo fai nuovo, te lo fai nuovo di zecca, te lo fai, capito? E così quando vuoi te lo ripiazzi. Beh, veramente Antonella, la mia intenzione era di portarlo martedì a Piazza dei Segni a buttarlo. No, io non ne pulisco 6 metri di palo a forza di spugnette abrasive. Allora, portiamolo qui, ce l'arrangio io, non ti preoccupare. Mi piazzo la mattova, mi piazzo la così proprio la mattova, me lo pulisco tutto io, se devi buttarlo me lo porti qua. Perché oggi mi ho comprato la spatolina, quella già te la faccio vedere, per poter pulire la roba dove c'è l'ossido, cosa del genere, e ti faccio diventare quel palo nuovo te lo faccio diventare. E me lo piazzo per provare la mantova, vediamo un po', lascio dove la mia 27 e tutto è trovato, nella parte, ci metto la mantova e la provo, e vediamo la differenza che c'è di segnale, una all'altra. Sì, ma non sono ordine, perché non ordini, sono 10 dopo 2 giorni. Non ho capito già, dimmi. Che se non discorso non vengo, dopo 2 giorni ci sono 10 di nuovo, anche se non vengo. No, non è che gli zingo, no, c'è del... Non è rubino, capito, una specie di patina di ossido, cioè. Non è che devo togliere lo zingo, no, devo togliere solo la parte di ossido e basta. Una lucidatura, come la vuoi dare? Ma al limite li posso spruzzare anche alluminio, per dire. La tingo l'alluminio, se la piglia in cupa, perché... Bella cagata. Ma secondo il palo è perfetto, non è che c'è niente più, c'è questa specie di patina grossa, sì, no? È bianca, quindi vuole fare, ma non lo tocco piano piano, ma al limite loro possono anche portare, a parte che sì, la tingatura vuole sempre tocca, perché se tu pigli un palo di un cazzo vuole sempre graffiato se vuoi che conduca. Poi ti dirò che ma su più punti per via del serraggio delle viti, quindi già mi arrangio io, non ti preoccupare, che ci mettono proprio la mano quella settimana, poi al limite dalla parte ce la passa all'altra la mano qua. Invece quando sarò obbligato a mettere un palo da 6 metri, prendo il palo da 6 metri nuovo, rinforzato, che abbia lo spessore da 1,5 mm, meglio 2. Scusi, perché tutto intero, come fai a salircelo? Tutti i casi dove sono... No, ovviamente telescopico e... Ciao, già, abbassa un po' il microfono, sei tutto distorto, non capiamo nulla. Di una segnale. Meglio, prima era talmente forte che saturava, era tutto quando mi ha detto gli aumentano i gatti ha toccato il macchinista di danno veglia 48 ore con Nick Nolte e Eddie Murphy, perché non l'ho mai visto. Io ho visto il secondo intitolato ancora 48 ore, che era bello, è la verità. Sceso il segnale di botto e mollato tutto. No, perché sceso di botto il segnale credo fosse caduta la portante, cioè non lo so. Poi c'è, mi pare su Rete 4 c'è Storia d'amore e di anarchia, due punti. E poi c'è un titolo che è lungo due righe. Non mi piace Storia di guerra e pace, quello è bello. Ma i film di Lina Wertmüller ti piacciono in generale? Non ho guardato qualcuno, ma non è che... Cioè, mi piace, ma no, i film che mi attraggono di più sono quelli di horror. Mi piacciono i film lì. Pasqualino Sette Bellezze era bello, ma anche crudo. Poi bello era quello Travolti, com'era, non mi ricordo, Nell'azzurro mare d'agosto, una figata. Poi Madonna l'ha fatto con un arrotturucolo, avevo fatto una vaccata credendo di superare o pareggiare quello di Lina Wertmüller. Molto fa, 7:30, 8. ero al bar in Piazza dei Segni, a un certo punto entra questa sfitta di ragazze e a occhio e croce mi sembravano quelle della Torres femminile, qualcuna anche vagamente carina, dai. E quindi stavi facendo il guanto? No, stamattina è andata a guardarci le ragazze del Codermo, ma stasera è andata a guardarci quella della Torre femminile. E una era un po' di femminile, aveva poco, però poi la voce era abbastanza femminile, dai. Mi chiedo se a volte se siano tutte lesbiche. Ma non è vero. Io figlio avevo a casa di una mamma e forse la Zulia che era quella che piace il calcio. Quindi ce ne sono tante che vanno a fare calcio. Mi avevano detto che era nell'attore femminile, ma questa piacevano le donne, cioè, quindi aveva anche lo sguardo abbastanza cattivo, guai a dirle niente. Vabbè, ma su tutto manca te le immagini, guarda, io ho fatto con una statistica che mi aveva detto. C'era questa ricordo che ce l'ha separata da poco, come ce la stava sentando. Stava facendo il fare, cosa lì. Però non era più chiaruta. Figlia. Sì, una volta lo dico perché poi se faccio TV e mi sento. Vabbè, lasciamo perdere. Antonello riprende. Qui 29. Io non ti dico nulla, mi trovo che da Senegalese. Io mi sui. Ma a te ti manca una cosa del senegalese. No, quella già mi funziona, grazie a Dio. Mi manca. Me ne vado a un cazzo meglio a brasiliana che la cosa del genere. Cerco io di qua avanti il fuscio. Luca, sei tu? Sono io. Lucinante, 9:15 attenuato. Come arriva a Luca? Luca, l'hai fatto la prova. Te ne ho messo la 5 ottavi, Luca. Sì, sul più del più 30, tra il più e noi siamo vicini, quindi non vale la prova. Ho guadagnato in vita abbastanza. Sì. Luca, guarda, era una gaga, è entrata l'acqua negli sti, che c'era un millimetro di spessore nell'isolamento. Allora. La nuova? Quella vecchia, quella cagata di Ringo. Dragone, Luca. Ma Luca. Sì, Luca. Infatti. San produttore. Quanto? Sede, con 10 fa. No, magari no. Forse erano 20 fa, forse. Tu hai la Mantova, questa anche se 5 ottavi non è mai paragonabile alla Mantova. Figa, volevo smontare. Ah, no, cazzo, vaffanculo. Cosa c'è? Ho piegato la tela degli occhiali, porca. Si sente sopra. Allora, spera. Che voi non avete sentito me bestemmiare quando faccio danno. Infatti mamma è cazzata nera. Ci passa di. Chi va? Sentire questa cosa non mi piace. anni, guarda che quando è morta da proprio età è sempre stato quando ho dato la messa dice signor Francesco, nostro fratello, non ha mai bagnato. Sta meglio, tu sei stato poco poco con la tua. Ma dove si mettiamo un bene, ma chi cominciava svanto l'ha fatto e diciamo di cosa, di figura se tu. Tanto come niente. Le bestemmie fede sono altre. Che succedono il babbo era grande. Tutti i giorni bestemmiava babbo. E anche un giorno che bestemmiava. Sai cosa mi ha detto un pisciato? Scusa, metto l'ultima pisciata che metto in sacco. Scusa, metto la maletta. Allì era. Cosa cazzo dire? Tutti i giorni bestemmiano stava. Non c'era un giorno non bella. Ma come hai pisciato? Non pisciato, non pisciato. Metto una pisciata che fai che faccio. No, ho curato così. Poi mi è scoperto il prete. Niente, no. Avevo detto peccatore. E ti vuoi fare un'idea? Germano Mosconi, ti fai un'idea? ognuno ha il corso uomo, ci sono delle religioni, insomma, ognuno ha il suo modo di vedere le cose, però, sì, adesso sta sicuro che la religione cattolica e il cristianesimo ha fatto tante di quelle porcate, ma porcate. Praticamente dovevamo avere Dio, dovevi avere paura di tutto, capito? Questa è una cosa che non... Ma tu mi ricordi di musica che tu sembra? Ma sei stata sempre sottomessa all'uomo per colpa della religione. A partire dal... Cinto, Ciro, una cosa del genere. Come gli arabi hanno dei giovini. È la stessa minestra. Vabbè, quella a prescindere, no? Se mi sento le femmine. Certo, certamente. Sentiti la Mattarello, diventiamo tutti gay, facciamo una frequenza gay. Io ho preso il Mattarello, mi ha fatto scrivere quanto cazzo te ne fa di quel Mattarello? Già lo so io, se detto quando sale su, detto che se c'è l'Alzheimer, aggirando il coglione di la testa. E si mette a ridere, sembra matto, sì, matto. E tutto cosa sa dire che non c'è mamma, gli ho detto, tutto era, gli ho detto, pensate con un controllo in mano, che cosa devi fare, gli ho detto. E adesso è un periodo che pensare con coltello, quindi c'è poco da fidarmi, è un periodo brutto adesso. Mamma mia. Purtroppo Antone, quella patologia alle volte rende la persona pericolosa. È una brutta patologia quella. C'è un periodo che deve trovare il muoio, quindi, cioè quello che vuole lei, no? Quello che voglio io, ma comunque sia, a dove posso, come, finché campa, e c'ha 84 anni, meno male già, è, cioè, pensando a quello, c'è il buono. 84, minchia! Gli faccio il palloncino sotto casa di domani sera, tipo pubblico anche a lei. Io da chi mi devo difendere di più? Da qui da già ti mangia. Ho fatto a bar. Comunque c'è qua vicino, dove siamo andati l'altro giorno. E qui ho una lanciata. Beh, mica gliela fai fumare. E ci vorrebbe una canna, ci vorrebbe. Che culo, che non sono di quelle che ci spacca, cioè. Qua mi sono salvato, le stecchette piegate verso il basso, proprio tutte piegate. Fortuna, se no, che sembra, per carità. Sono seduto, ma cosa che ma? Ma rispondo seduto sopra. Già te riparo io di Luca. Oh. Ecco io. Però anch'io, perché ho la vista. C'è volte proprio stanca e vedo male da lontano, da vicino no. Buonasera anche a lei, qui c'è stato un appetito con la chi dove si. Ciao Sacramento, ben sentito, questi sono tutti rincoglioniti, insomma, te dico esclusivamente io. Ben sentito Sacramento. Come Luca, l'altro è giallo e poi va rotondo. Lo so che entrano basso ma appena lo senti, io mi ricordo che volta ero a Piazza Vecchia con 4 watt. No. Sentiva da Piazza Vecchia, allucinante. Se che c'è questa modalità qua, non possiamo attaccare niente. Ma la cosa qua è confiltrato. E al primo luogo io mi salvo. È l'unico apparecchio, guarda, che non c'è qua, REM è zero, sia il presidente Jackson. Attento Luca. Aspetta. Stavo prendendo il mic. 39:35, sì. Ottimo, che devo provare la Mega Force qua. Per come lo Smith. I superstar sono abbastanza silenziosi, cioè quando c'è tra centro, però sono più silenziosi. Santa Maria, l'FM500SMI o l'Alan 40 XL, per carità. Ma non è mai c'è, no. No, ma che? Cioè, anche quando non c'è QRM, loro c'hanno tipo 4 fisso di QRM, sapevo 4. Lì è proprio più silenzioso il ricevitore. Sai qual era tremendo anche? All'Albrecht 5008, quello piccolino, era la fabbrica dei rumori, mamma mia, si tirava dentro neon, luci, lampioni, ma terribile, terribile. Forse è stato anche meglio che si sia spacciato. Certo che sì. Fa una cosa, mettici la ringhiera che c'hai lì, la ringo, se ti metti quello che c'hanno più il QRM. Quale ringhiera? Non so, fai due buchi del muro al terrazzino e ci metti la ringo con un paletto a un metro, cosa ne so io? Qua non c'è la ringhiera di ferro, qua è muratura piena. Tu fai due fori, ci metti due tasselli e ci metti la ringo di lì. Esamini volto, anzi domani la faccio a pezzi. Ci metto il piede, la piego in due, in tre, in quattro e ce la butto. No, lascia stare così come fregate, già ci penso io. Te la modifico io la ringo. Non buttarci niente. Già ci penso io a modificarla. Però mi la ringo, quando si installa bisogna, e poi aspetta adesso che quando l'abbiamo tirata giù, Antonio mi aveva chiesto se avevo isolato il punto da dove esce il cavetto che va alla spirale. Io gli ho detto no, in realtà l'avevamo isolato perché è pieno di nastro isolante lì, proprio l'ombrello per chiudere tutto, no? Sotto quell'ombrellino di silicone gli abbiamo messo tutto il nastro, quindi era fatto lì. Il problema era l'acqua che è entrata tra due stili, quella quando va messa va fatta come l'ho fatta io Antonio, il nastro autoagglomerante teso, lo avvolgi bene passando più volte un pochino nei punti sensibili tipo intorno alle viti, intorno ai giunti, e poi ci passi nastro isolante, anche quello leggermente teso in modo che prenda bene, non dovrebbe entrare acqua. Poi se vuoi fare anche di più metti il nastro autovulcanizzante e diventa pietra. No, non voglio fare quello io voglio modificare quella lì come la originale una volta, il rame, hai capito? C'era solamente una bombina in rame, un chicco, un coso solo, non tre, hai capito? Uno solo, largo, figlio dei tubi di rame, già ci sono i tubi di rame in campagna, perché tanto, quindi devo ricordare, sono scatto se mi frega, no? Il recupero mi faccio andare più la misura della bobina che c'è in su, e poi ce la mettiamo con lei e vediamo come le cose ne esce fuori. Mi sa che esce una cosa come ce l'è, vediamo bene, non lo so, si proverà. Gianni riprendi, diglielo che la lingua non serve, è solo per mondezza. Io sto parlando la lingua originale, la rifaccio originale. compava, era mezz'onda, era veramente una bella antenna. Perché me la ricordo, la usavo, era perfetta. Lo sto dicendo io. Il problema è procurare la misura giusta dello stilo e anche il diametro della carica, perché era mezza carica, non una carica sola, era mezza carica, non era tre spire per dire, cioè avete una spira larga di rame, partiva dal basso verso l'alto, basta, non c'era altra. Poi c'era questo aggeggio che ho capito, partiva la PL centrale con una fascetta e dovevi regolare e basta. Vabbè, comunque è strano la Ringo, perché mi pare che all'inizio, quando fai entrare gli elementi tocco, tanto da coprire il taglio che c'hanno, no? Perché lì ha fascette, è lunga tipo 5,20, una cosa del genere. Il cavetto in fabbrica è stato, diciamo, proprio orientato verso sinistra. Tu guardi il bocchettone frontale, il cavetto proprio va verso sinistra. Tu forzandolo lo puoi portare anche dalla parte destra. Sicuramente, mettendo l'antenna lunga, che so, 5 metri o 4,80, puoi spostare il moschetto tutto dalla parte opposta. Anziché sulla prima spira lo porti sulla seconda spira, cioè quella più in alto, probabilmente Joan, solo che io non ho voluto forzare il cavetto dalla parte opposta, capito? Ho capito, ma io voglio rimirare quella sorta di scarica, quello che chiamare tu, sono tre spire in alluminio, e lo voglio mettere in rame, siccome è giù in campagna sono tubi di rame dell'acqua e sono rivestiti in plastica, lo faccio altro che fare così, capito? In pratica la plastica intorno al rame e faccio la misura giusta e faccio l'arco e voglio vedere cosa succede, vediamo se cambia una ringo. Questo è il problema, perché con una sola spira la misura dello stilo è di 5 metri e mezzo e lì non ci arriva, massimo mi pare 5,20 metri, una cosa del genere. Io mi ricordo che era 6,50 lo stilo della ringo originale, era 6,50 perché era lungo ed era tutto alluminio, era 6,50, poi c'era la spira che era, non lo so, di diametro forse era fatta 50 cm, 50 cm all'altra, insomma non è che magari sto dicendo per 6 ieri, io l'ho avuto. Peccato che ce l'ho buttata, se no già uguale, se l'avevo buttata l'avrei costruita uguale, per dire. No, Antonio, allora se tu guardi, mi pare anche dei progetti su circuito elettronica vecchio, la ringo con l'unica spira che sia rame e alluminio è stata pari leggermente al di sotto di la porzione di spira, capito? No, 6,5 metri, sto scherzando. Avanti, vedi. La scappa, adesso quella era una ringo parvesi. Ringo così tutta dei conti. Facciamo un saluto e mezzo. Partiva, faceva mezzo giro qui io. Però un cazzo di rame era grosso. Cazzo, era quasi, dopo se un centimetro così, con la fascetta. Lo stilo era lungo in, mi sembra, non mi ricordo se 5 metri e 50 o 6 o se va lì. Antonio, però per essere qua, 1 MHz, 15 è troppo, pare, sui 27 MHz. E qualcosa da raggiungere, la verità. Però, ma mi sto sbagliando anch'io, cosa ne so io? Comunque sia, basta controllare, non costa niente controllare, la ringo, ancora le misure che consigliano proprio il rame, non in alluminio, il rame, che faceva in teoria, non è che faceva in teoria. so benissimo, ce l'ho davanti agli occhi, cioè ce l'ho stampato nella mente. La vita di lì era alta, no, per attaccare, la volassi con la cosa in rame. E così, se vuoi ti aspetta, dovresti. Come era Roger, argomento apposito degli anni che fu 550, compreso il tubetto e la base. È un rame, è una cosa. Fondamento, no, no, aspetta. Tolgo un pochettino il computer e vediamo un pochettino cosa ne c'è fuori. Al limite la faccio uguale, se ci riesco naturalmente. Elio, illuminala un pochino. Ma no, vabbè, c'era una lingua che c'era una mezza stilale, cioè non è che avevo una mezza stilale. C'era solo un magazzino, quello me lo ricordo. Ma no, non ricordo però se rendeva però. Ah, certo che rendeva quella, cazzo, me lo ricordo io, diciamo la Grand Prix è stata a casa, la Grand Prix a 8 mediali, usciva in città molto forte, invece la mezz'onda in salta si mangiava la Grand Prix, si mangiava, me lo ricordo ancora perché c'era cosa, Suave, più figurati, e anche la spostata da una all'altra di 2 metri, quello che sto dicendo. Ma se riesco a trovare lo schema elettrico come la tua, la faccio uguale, te lo sto dicendo. Faccio la carica in rame, li faccio nudo come la prima, perché prima c'era il rame un nudo, cioè sempre con questo capetto con la partita dal positivo del PL fino alla carica, e poi c'era la fascetta e andava lì. Però guarda che tipo rame con il sezione tubo è grosso, sai che c'è da 20. E vabbè, cosa cambia? Insomma, il rame c'è con i tubi d'acqua, e dove i tubi d'acqua ci sono in campagna che sono buttati lì, che sono i due fitti, e non quello che c'è quello, cosa mi ne frega. E facciamo la prova, basta appigliare il diametro giusto dal centro alla, come si chiama, e lo facciamo uguale. Magari esce molto meglio di quella dell'altra, niente di strano, anche perché questo diametro del disco che c'è adesso, che sono tre spirali, che prima era solamente una, quindi mi sembra che è molto, molto più corto in teoria il diametro. Sì, va bene, quello sì. Però pare che avesse radiali quella penna lì, o no? Quattro radiali. No, radiali non va, perché proprio usciva solamente senza radiali con l'antenna. Radiali non ne aveva. Io non ricordo con i radiali. Stavo sbagliando io. Non ne ha radiali quella. Comunque Antone, mezzo giro, troppo poco, di solito sono tre quarti di giro circa, due terzi, tre quarti, dai, la ringo proprio artigianale con la bobina di rame. Il problema è che il rame esposto all'intemperie diventa subito verde, si ossida subito. E infatti era così, dovevi spalmarlo di cose, vasellina, aspetta su internet, controllo là. Metto boomerang, Ringo, anni 60-70, vediamo cosa esce fuori, là. Comunque la spirale faceva un giro completo, nel senso, iniziava sotto e finiva sotto la nostra posizione. Quello che vuoi, comunque sia, ma lo faceva tre giro. Aspetta, controllo, adesso lo metto su internet, vediamo quanto è la misura e vediamo quanto è lo stilo. Cazzo, prova a controllare. Vabbè, ripeti Marco. Io comunque mi ricordo della mezz'ora lì, quella lì, 40 lì. non ricordo perfettamente, era una mezz'onda, non quando era una mezz'onda con la Lingo. Ehi Leo. Sì. Allora sì, ho visto delle Lingo che avevano il giro della spirale completo, no? Cioè quelle due staffette che tengono la spirale erano una sopra l'altra. Ho visto delle Lingo sempre artigianali in cui la spira non faceva un giro completo, faceva tre quarti di giro, cioè le staffette non erano una sopra l'altra ma erano un po' distanziate, dai. Quella che mi ricordo io dall'epoca, non era una, ed era sicuramente, e aveva la spirale che faceva quasi la faccia la curva tutta la quale mancavano forse 10 centimetri, comunque era sicuramente buona. Sì, addirittura in certi progetti la lunghezza dello stilo non era critica, cioè non doveva essere precisa, perché poi il resto del lavoro lo facevi col morsetto spostandolo sulla bobina. Molti l'apprezzavano all'epoca, però sempre una mezz'onda resta, non è 5 ottavi. Stai usando la potenza consueta? Non lo so, no, perché lo so, perché. Sì, perché stai arrivando a tre volte di tipo circa 8, adesso con l'antenna che ho cambiato sei oltre 9, 9 pieno. Allora, sto uscendo 15 watt. E le altre volte quando erano, ti ricordi quando parlavamo di notte? 10. Ah beh, la differenza è trascurabile, meglio. Alla fine 5-15 cambia un po' più di un'inezia e quasi non si vede. Vediamo se c'è Gianni, doppio Roma ancora. Gianni? Vabbè, vediamo se Antonello ha fatto, ha trovato. Certo l'ha trovato. C'è la voglia che c'è. C'è un vecchio modello disegnato. 144-39 ebay.it. Poi c'è la lingua lì, la voglia che c'è. Eia, poi c'era per i 10 metri la giornata più corta, la potevi fare anche per i 12 metri la giornata più lunga. Insomma, anche per i VHF, per i 144 MHz c'era la Lingo, più che altro erano artigianali, Oh! Ehi, Alu. Sono andato, ho aperto la profumeria nuova di Limo di Piazza d'Italia. Ci serve questa tipa, la mia vostra mia amica, cazzo, ma buona! Lucina, una tipa bella, ma bella veramente, 2,7, una bella vita, va. Poi la minigonna, mi lasci immaginare. Allora andranno molti clienti maschi? No, solo che stava facendo solo le, sai, non solo l'apertura, no, le prove per fare provare i profumi, ma mi sono stati per i Cagliari. Vabbè dai. Oh, guarda, Lucina, c'ho un petto fuori di gabbo, ma bello, bello veramente. Bei tempi. Sanno, questa mia amica mi dice, ma stai guardando, lui che ti fa male. Ah, quello che ci oltre il danno la beffa. Rispondi di un dubbio allora. Sentiamo e vendiamo. Vediamo Antonello cosa ha trovato o cosa crede di aver trovato. Pino Lemme. Ma sai quali di quante cose si possono fare per la Catalogo? Pure testa. La può unificare. Non sa come di fare quello. Sì, certo, naturalmente. Se te la fai per i 40 metri, 20 metri di ringo non ce li vedo proprio. Infatti va bene, dai. 11 metri dintorni in su, aspetta, per i 20 metri quanto sarebbe? 10 metri di ringo, è già un casino, Per i 10 metri di ringo non è che sia quello che è, come che esiste, ma comunque la può modificare. Per i 50 MHz, hai visto quelle antenne vicino a casa, no? Quella ringo che c'è è più corta e anche più sottile di diametro, ho l'idea che sia una per i 50 MHz. Ma è certo anche quello, perché non c'è neanche un canale di 50 MHz. Ci hanno comprato tutti da quelli che 70 MHz adesso, figurati tu. E lì ci sarà ancora meno traffico. Se non c'è in 50, figurati in 70 MHz. Alla fine, queste frequenze non è. Insomma, sono vuote. Quando fai il giro, la maggior parte delle volte sono vuote. Per non dire quasi sempre. Al Peluca, apparato sopra i tene verticalmente, ripeto. Signori, io sono stamattina passeggiando, ho fatto su contro al monte, centro città, centro, poi rientrato a piedi, poi riuscito, fatto da devo al monte, tutto Piazza d'Italia, che ballà, che qua e là, e sono non stanco di più. Adesso me ne vado a dormire, ciao a tutti, buonanotte, a domani. Ciao Luca, buonanotte, ci sentiamo. Avanti Antonello. Ciao Luca, ci stiamo lavorando. Domani la benità per i domani che vogliono attaccare un po' di antenne di un morto, quindi devo andare a recuperare un po' di mondezza, diciamo. Poi ci sono gli avvoltoni che vanno, se la prendono. Minchia, antenna di morto, noi portarognano. Qui la frega sei a me, è morto quello, non è che fa sapere seguitarmi. Salute Luca, buonanotte. Eia, sì, che porta male, non si sa mai. E dici, non viene per seguitarmi, cosa ne sai? Vedrai che viene. Io non tale moto non è prego, glielo sai, se la prendono gli altri, quindi. Domani sta con una specie di cerchione che c'è attaccata sopra al tetto. La direttiva gliela attaccata e quindi pur piacerà e se ne venderà i figli, questo non lo so. Mi ricorda quando facevano le battute, quando mancava un radioattore, andavano subito gli altri radioattori a fare le condoglianze. Condoglianze signora, e quello diceva, mi portatevi via tutto, non voglio più vedere niente. Non so se succederà così, comunque sia. Domani è stato quel cavolo di antenna inviato il sole, la planeta se la viene. Lui è l'antenna. Planeta. A Mario Planeta, la tua anima del musso. Ma il figlio Chico si chiama? Un figlio che ha Chico si chiama? Non so si chiama Chico, la verità del figlio. Non volevo attaccargli con una specie di cerchione che c'ha sopra il tetto, che fa una specie di multiballo, non so cosa cavolo sia. Devo scendere in garage e poi figlia ci allaggia, se la vuole dare ai poveri, la dare ai poveri, a me quella roba proprio non mi ha fatto tutto un cazzo. C'ha un sacco di antenne, c'ha un sacco di apparecchi, so se voi, se riprende il fuoco di questo, non so dire, comunque sia, i capi sono maggi, sono tutti neri come il carbone, al limite possiamo andare in Romania a venderli. Chi è il servizio che si chiama Chico? Boh, chiedo la verità, se... chiedo, chiedo, non c'è fa niente, non mi costa niente a me. Comunque sia, dovevo andare per fuori a tirare. E sa con la specie di antenna sono a posto, lì ti ho già attaccata. E giù a cosa? A livello di sorso. E funziona, c'è il motore, c'è il... c'è tutto. Mi ha fatto vedere la steppa, la faccio la steppa. Vabbè, non so, no, ma comunque per andare in cazzo, diciamo, prima di sorso, per arrivare a sostenere il debito di sorso, va. C'ha di una multibanda e la direttiva, c'ha, che è roba sua. La sta vendendo questo tipo. Chiedi a Stefano, già lo dice lui, già l'ha vista lui la direttiva, e anche la butta in banda. La direttiva preguntando, che no, fa 10, 20, 40, 80, mi sa, se mi ricordo male. A noi basta che compra 45. Comunque ci sono le antenne, c'è l'antenna, c'è la catena, che la fai? Guardi che va larga 6 metri, 4x4 di cosa, è poco scudo al tetto. Ne ho avuta una io tanti anni fa, guarda, mamma mia, sono venuti presi piedi con il metro, cioè, me l'ha portato a casa, no, tu se vuoi venire a casa mia, mi ha detto, ora ce l'ha avuta la bombezza, allora l'ha avuta la, dare, mi sono lavorata, soffrivo 50.000 lire, sai quanto costava un'altra ragione, a quel periodo, 2-3 milioni costava, cazzo. E poi l'ha fatto l'affare, ho fatto il coglione io, se la verità sta, con la volta lì. Eh sì. Magari era meglio smontarla, chiedere a un amico di tenerla in garage in attesa di, boh, di qualcosa. A 50 euro davvero è regalata, poi dipende cosa era. 100.000 lire, ci arriva allora Marco, ti dico c'è una cosa con l'antenna per saltare, più la campanetta, va bene, adesso mi ricordo se tu te lo ricordi. C'è la bandiera gialla, c'è la lavorata a lui, a te faccia giù a Calabella, e la mano usata lì, tu figurati tu, tutta la smontata, data a lui, si è fatto la partita, poi c'è passato Simba e la va per Pontiglia, spaccata con trattore, cazzo. Via, va bene, aspetta un po'. Ragazzi, vedo che l'ora è tarda, devo ancora cenare, eccetera, eccetera, dai. Ciao Elio, buonanotte, ciao Antonello, buonanotte, ci sentiamo. Sto uscendo, sì. Ehi, ciao Marco, buonanotte, a domani, ci sentiamo, ti ho sentito poco fa. Ciao Marco, sto facendo il disegno della mia antenna. Dai, ci siamo alle prossime. Buonanotte con quelli. Buonasera. Papà, buonanotte a tutti, dai, quelli. Ciao Marco, quelli a domani. Sotto sul centro ho fatto una fesseria io. Col periodo della data, regalata volontà. Faceva 10, 20, 40, 80. Era 4 metri per 80, 2 elementi, sto dicendo e. 5 metri da una cosa all'altra. Ho fatto male a darla questa io, a far culo a me. E avevo saputo l'avevo venduta. Bravo. Vizzetto, quindi già c'è un'occasione di vescovo su tutti i giorni, messa con l'antenna, poi dopodiché mi ha detto mamma ci arriviamo da seguirci, abbiamo venduto di qui, se ti porti con l'antenna dice su, ti sbatto di casa, cosa vuoi fare? A un certo punto ho preferito trovare Giuseppe, proprio che la via Campanella, proprio che era ancora bella e c'è anche sì. E infatti ho guardato questa lì. Io invece un giorno la pigliato di Dumaco, ragazzo, ha pigliato e contato la fatta a pezzi, era tutta in alluminio e i gancetti tutti in acciaio era. Montella della Bolare, ma di Elio, no, non di Elio, di Mario Bravo Ciampi, che siamo altri 10 anni prima con l'antenna lì, tu figurati, l'antenna di 20 anni nuova, trovava a svittare i bulloni, era come se li svittavi a mano il primo giorno che li avessi avvittati, tale uguale. La bobina dentro, figurati, ma faceva 10-20 cose completamente, faceva un avvenimento allucinante, comprava un bel comprato con l'antenna, guarda, me ne sono pentito. Poi c'avevo la multibanda che quella mia, vabbè, quella si era troncata, ci avevo buttato la mandetta, ho avuto la Firenze 2 come antenna, la Super Regibus che aveva volato la sorella, di Checco con l'antenna che ci ha dato la mondezza mio cognato, quindi ha fatto una bella e come regalare gli altri di cosa è quella allora regalare anche gli altri e fanno sempre la fine di Checco gli altri migliori fanno la fine di cacca. Non ho capito con l'antenna tua. Ma adesso prova la mia antenna. Ah. Adesso fa sentire. Thank you. l'avevo fatta. La spitti che? Quella che ho. Che c'è gira con l'antenna? Se tu ti fai girare a Sassari, sai quanto maturatore vi buttate sopra i tetti? Se ti fai un giro, tu devi avere solamente la competenza di andare dal capocondomo e dice guarda io sono un tecnico. A lei cosa ne frega di quanto c'è sulla tetta, lui quel signore non la usa più. Dice a me non me ne frega niente, allora dice guardi, c'è il nuovo risultato, ma vado con il distacco. E me l'ha portato via. Lei contrario, dice no, e allora ho cominciato a vivere le antenne. A uno a uno, per dire, televisioni, quello che può te li rivendi e ti fai i soldi. No, comunque no, me ne se tu guardi qua a Carbolazzi, anzi a Carbolazzi via, di fronte alla casa Magondao ci sono delle antenne, ci sono da portare via se ti interessano, di andare a capocondomino a chiedere a lui la chiave, salire sopra il tetto, abbassare il palo, ti porti via il palo, ti porti via le antenne, sono di 8 anni fa. Tu figurati. E beh, ci sono padrone, no? No, non c'è solo padrone, perché padrone non c'è proprio niente. Padrone è cambiato casa e ha i punti. Deve andare a capocondomino, chiedere la chiave, salire sopra e smontare tutto. Ci sono antenne, una è la Battle Duster, l'altra è la Mantova 5. Ma è per questo anche oggi. Ma per dire, se vuoi dire, c'è calante nella stanza, è pieno. Sai, anche a centro storico se tu vai, ci sono dei supermercati coricati in terra, sbagliate, la tacchiere, non costa nulla. In questi giorni ci passa per la gente storico di Cuba, di quarantena cosa ve ne fate, se dice non ce la facciamo niente, la regala, salgo su me l'attacco me la porto via, se dice sì, salgo su me l'attacco cosa me la fotte, la sistemo bene, la pulisco e poi me la rivendo. A favore sto trovando quelli là. Ah, c'è 92. Cappa. Non c'è problema. Per quello. Ti ho sentito un dato che sono ricordo male, giusto? Non ho capito. Sì, ti ho sentito un dato. Ma è proprio male, c'è una volta. Ma c'è una volta. C'è una volta, vabbè. Come il bicchietto 31? Questo è il bicchietto 32. Non capito. Va bene, va bene. Che ti dai io non so recuperare. Che lo sai quanto l'ho venduto a quello là, diciamo prima, 80 euro. E funzionava benissimo i 131, 800. 80 euro per vendere veloce, subito, subito. Non c'è da niente quello, io non c'è da niente. Sei tutti batteri, no? Non è capito. Io non so, ma no, nessuno. Non c'era nessuno. E vabbè, ho fatto io quello che resta recuperato. Lo recuperiamo. E sapere che si può vendere. Perché lo passa a chiedere in giro, chiediamo, e qualcosa faremo. scusa. Ma per l'altro, perché non ho scusato, ce l'ha pronto. Ce l'ha pronto. Va bene. Beh, va a occupare la mamma. Non c'è una roba da fare. Dai, ci chiamiamo oggi. Io credo che deve essere tutto. E c'è tutto. Adesso vado a fare quel lavoro e attira alle 9. E quindi fino a sono le 10 e mezzo 11 fare questo lavoretto qua. Poi rientro a casa, ti faccio chiamata, se sei a Sassari, passi qui e andiamo tutti assieme a fate vedere con l'antenna che l'ho bussata, vabbè, la fatta tutto, ci sono tutti i segni, eccetera, eccetera. Te la guardi, se ti interessa, c'è il motore, c'è tutto, c'è il control box, quindi, e c'è anche la moto in bada verticale, dipende da te. Vabbè, comunque, scegli la lettura, c'è problema. Ci vediamo domani, ok, a domani, ciao, buonanotte.